Alle scuderie del Quirinale di Roma, il Museo Universale, dal sogno di Napoleone a Canova. Una grande mostra per rievocare l'avventuroso recupero dei capolavori italiani dalla Francia. Raffaello, Tiziano, Guido Reni. Fino al 12 marzo, scuderiequirinale.it. Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte. Traduzione di Monica Pareschi. Impossibile fare una passeggiata quel giorno. In realtà la mattina avevamo vagato per un'ora tra gli alberi spogli, ma a partire dall'ora di pranzo, la signora Reed, quando non c'erano ospiti, mangiava presto. Il freddo vento invernale aveva portato con sé nuvole così fosche, una pioggia così penetrante, che qualunque altra attività all'aria aperta era ormai fuori discussione. Ne ero felice. Non mi sono mai piaciute le lunghe passeggiate, soprattutto nei pomeriggi gelidi. Era orribile tornare a casa nella luce cruda del crepuscolo con le dita delle mani e dei piedi intirizzite e il cuore triste per i rimbrotti di Bessie, la bambinaia, umiliata dalla consapevolezza della mia inferiorità fisica rispetto a Elisa, John e Georgiana Reed. I quali Elisa, John e Georgiana erano adesso raccolti intorno alla madre in salotto. Lei era adagiata su un divano accanto al caminetto e circondata dai suoi diletti, che per il momento non si accapigliavano né piangevano, sembrava perfettamente soddisfatta. Quanto a me, mi aveva dispensata dall'unirmi al gruppo, dicendo che le dispiaceva essere costretta a tenermi in disparte, ma finché non fosse stata informata da Bessie e non avesse constatato di persona osservandomi che mi stavo sforzando sul serio di comportarmi come si addice a una bambina, mostrandomi socievole, affabile, lieta, dovevo essere più vivace, più schietta, più spontanea, insomma. Le toccava proprio escludermi dai privilegi destinati solo ai bravi bambini che non fanno i capricci. «Ma Bessie, cosa dice che ho fatto?» domandai. «Jane, non mi piacciono i curiosi o quelli che trovano da ridire su tutto. E poi c'è qualcosa di davvero sgradevole in un bambino che si permette di rimbeccare i grandi in questo modo. Vatti a sedere da qualche parte, finché non avrai qualcosa di gradevole da dire, taci!» Accanto al salotto c'era una saletta per la colazione e mi infilai lì. Nella stanza c'era una libreria e ben presto mi impadronii di un volume, dopo essermi assicurata che avesse tante figure. Mi arrampicai sul sedile, nel vano della finestra, e sollevando anche i piedi mi sedetti a gambe incrociate come un turco. Infine, dopo aver tirato quasi del tutto le pesanti tende rosse di tessuto, mi ritrovai doppiamente protetta, come una reliquia. Lembi di stoffa scarlatta mi impedivano la vista a destra. A sinistra i tersi riquadri di vetro mi isolavano senza separarmi dalla cupa giornata novembrina. A intervalli, mentre giravo le pagine del libro, studiavo il pomeriggio invernale. In lontananza, nient'altro che un biancore vacuo di nebbia e nuvole. Più vicino, uno scenario d'erba bagnata e cespugli flagellati dal vento, lunghe raffiche luttuose che spazzavano via con violenza la pioggia incessante. Tornai al mio libro, La storia degli uccelli inglesi di Bewick. Del testo non mi importava granché, eppure c'erano alcune pagine introduttive che, pur essendo una bambina, non riuscì a saltare a piè pari fingendo che non esistessero. Erano quelle che trattavano dei luoghi abitati dagli uccelli marini, degli scogli e promontori deserti che essi soli popolano, dalla costa norvegese fino a Capo Nord. Le parole di quelle pagine introduttive si collegavano alle illustrazioni seguenti e davano un senso allo scoglio che si ergeva solitario in un mare gonfio e spumeggiante, al vascello spezzato e arenato su una costa desolata, alla luna fredda e spettrale che attraverso una prigione di nuvole occhieggiava un relitto sul punto di colare a picco. Non so dire quale sentimento gravasse sul cimitero solitario, con la sua lapide incisa e il cancello, la coppia d'alberi, il basso orizzonte cinto da un muro diroccato, la falce di luna appena sorta a indicare l'ora serale. Le due navi immobili mi parvero fantasmi marini. Girai in fretta la pagina col demonio che sistemava il fagotto sulle spalle del ladro. L'immagine mi terrorizzava, come pure quella con la creatura nera e cornuta seduta su un masso in disparte a guatare di lontano una folla radunata intorno a una forca. Ogni figura raccontava una storia, spesso misteriosa per la mia mente acerba e la mia sensibilità infantile, e tuttavia profondamente interessante. Interessante come le storie che Bessie narrava le sere d'inverno, quando capitava che fosse di buon umore e quando, dopo aver spostato il tavolo da stiro accanto al focolare nella stanza dei bambini, ci lasciava sedere intorno a lei e, mentre rassettava le gale, i pizzi della signora Reed e pieghettava i bordi della sua cuffia da notte, nutriva la nostra avida attenzione con brani romantici e avventurosi tratti da vecchie fiabe e antiche ballate. Col mio Bewick sulle ginocchia, insomma, ero felice. Felice a modo mio, almeno. Non temevo nulla se non d'essere interrotta, cosa che accadde di lì a poco. Qualcuno aprì la porta della saletta. «Boh, signorina Musolungo!» gridò la voce di John Reed. Poi tacque. La stanza era apparentemente deserta. «Dove diavolo si sarà cacciata?» proseguì. «Lizzy! Giorgi!» chiamando le sorelle. «Qui Jane non c'è! Dite a mamma che è uscita sotto la pioggia, quella brutta bestia!» Meno male che ho tirato la tenda, pensai, e mi augurai con tutto il cuore che non scoprisse il mio nascondiglio. Certo, John Reed non lo avrebbe trovato da solo. Non era particolarmente dotato, né di vista né di comprendonio. Ma a quel punto si affacciò alla porta Elisa, che subito disse: «Sono sicura che è sul sedile della finestra, Jack». E io uscii immediatamente, poiché tremavo all'idea di essere trascinata fuori dal suddetto Jack. «Cosa volete?» chiesi con malagrazia, piena di diffidenza. «Devi dire: cosa desiderate, signorino Reed?» fu la risposta. «Voglio che tu venga qui». E sedendosi su una poltrona, con un gesto mi intimò di avvicinarmi e mettermi davanti a lui. John Reed era un collegiale di 14 anni, 4 più di me, già che io ne avevo solo 10. Grande e grosso per la sua età, con un colorito smorto e malsano, una faccia larga dai tratti marcati, gambe e braccia poderose, piedi e mani grandi. A tavola si ingozzava regolarmente. Questo lo rendeva bilioso e gli dava uno sguardo ottuso e appannato e guance cascanti. In quel periodo avrebbe dovuto essere a scuola, ma la mamma lo aveva portato a casa per un paio di mesi per via della sua salute cagionevole. Il signor Miles, il direttore del collegio, assicurava che sarebbe stato molto meglio se da casa non gli avessero mandato tutte quelle torte e quei dolcetti. Ma il cuore di sua madre si ribellava a un'opinione così severa e la sua sensibilità le faceva attribuire il colorito giallastro del figlio all'applicazione eccessiva allo studio e forse alla nostalgia di casa. John non era particolarmente affezionato alla madre e alle sorelle e per me nutriva una vera e propria antipatia. Mi maltrattava e mi angariava, Non una o due volte alla settimana, e nemmeno un paio di volte al giorno, ma di continuo. Ogni nervo del mio corpo lo temeva. Ogni centimetro di carne sulle mie ossa si contraeva al suo avvicinarsi. C'erano momenti in cui ero stordita dal terrore che mi ispirava, perché nulla potevo contro le sue minacce o le sue angherie. I domestici non volevano offendere il padroncino prendendo le mie parti. E la signora Reed era cieca e sorda al riguardo. Non si accorgeva né delle botte che mi dava né degli insulti che mi rivolgeva, sebbene talvolta mi infliggesse entrambi in sua presenza. Più spesso, però, egli agiva alle sue spalle. Abituata a obbedirgli, mi avvicinai alla poltrona. John passò più o meno 3 minuti a mostrarmi la lingua quanto più poteva senza che si staccasse. Sapevo che presto mi avrebbe picchiata, e mentre aspettavo, terrorizzata, il colpo, meditai sulla bruttezza ripugnante dell'essere che era sul punto di assestarlo. Chissà se me lo lesse in faccia, perché d'improvviso, senza dir niente, mi colpì a tradimento e duramente. Barcollai, poi recuperai l'equilibrio, indietreggiando di un passo o due dalla poltrona. «Questa è per la tua sfacciataggine quando rispondi alla mamma», disse, «e per il tuo modo di sgattaiolare dietro le tende per come mi hai guardato 2 minuti fa, verme che sei!» Avvezza com'ero alle ingiurie di John Reed, l'idea di rispondergli per le rime non mi passò nemmeno per la testa. La mia unica preoccupazione era come resistere al colpo che certo sarebbe seguito all'insulto. «Cosa ci facevi dietro la tenda?» «Leggevo. Fammi vedere il libro». Tornai alla finestra a prenderlo. «Tu non hai diritto di leggere i nostri libri. Sei una dipendente», dice la mamma. «Non hai un soldo. Tuo padre non ti ha lasciato niente. Dovresti andare a chiedere l'elemosina invece di vivere insieme ai figli dei signori e mangiare come noi e vestirti a spese della mamma. Adesso ti insegno io a frugare nella mia libreria, perché è mia, tutta la casa è mia e lo sarà tra qualche anno. Va a metterti vicino alla porta, lontana dallo specchio e dalle finestre». Obbedì, senza rendermi conto, da principio, delle sue intenzioni. Ma quando lo vidi sollevare il libro a mezz'aria e alzarsi per scagliarlo, lanciai un grido d'allarme balzando istintivamente da parte. Non fui abbastanza pronta, tuttavia. Il volume volò per la stanza, mi raggiunse, io caddi sbattendo la testa contro la porta e tagliandomi. La ferita cominciò a sanguinare. Sentii un dolore acuto. Il terrore, giunto al culmine, lasciò il posto ad altre sensazioni. «Sei malvagio e crudele», dissi. «Sei come un assassino, un negriero. Sei come gli imperatori romani». Avevo letto la storia di Roma di Goldsmith e mi ero fatta un'idea di Nerone, Caligola e compagnia bella. E dentro di me avevo fatto dei paragoni che non avrei mai pensato di esprimere ad alta voce. «Come, come?» strillò lui. «È a me che parla? L'avete sentita, Elisa e Georgiana? E non dovrei dirlo alla mamma, ma prima...» Mi si avventò contro. Lo sentii che mi afferrava per i capelli e per le spalle, ma era alle prese con una creatura disperata. Io lo vedevo davvero come un tiranno, un assassino. Sentii una goccia di sangue o due colarmi dalla testa giù per il collo e avvertii un dolore piuttosto acuto. Queste sensazioni per il momento prevalsero sulla paura e reagii come una furia. Non so bene cosa feci con le mani, ma lui mi urlò «Verme, verme!» e cominciò a gemere a gran voce. Ma la salvezza per lui era a portata di mano. Elisa e Georgiana erano corse a chiamare la signora Reed. Eccola dunque entrare in scena, seguita da Bessie e dalla Abbott, la sua cameriera. Ci separarono e udii le parole. «Santo cielo, con che furia si è gettata sul signorino John! Si è mai vista una collera simile?» Poi la signora Reed aggiunse: «Portatela nella camera rossa e chiudete la chiave». Subito 4 mani mi calarono addosso e fui trasportata di sopra. Opposi resistenza per tutto il tragitto, cosa nuova per me, e che rafforzò notevolmente la cattiva opinione che Bessie e la signorina Abbott già tendevano ad avere nei miei confronti. Fatto sta che ero fuori di me, o meglio, come dicono i francesi, ero proprio folle. Ero consapevole che la ribellione mi aveva già resa passibile di punizioni inaudite e, come ogni altro schiavo rivoltoso, ero decisa nella mia disperazione ad andare fino in fondo. «Tenetele le braccia, signorina Abbott, è come un gatto infuriato!» «Vergogna, vergogna!» strillò la cameriera della signora. «Che condotta scandalosa! Alzare le mani su un giovane signore, il figlio della vostra benefattrice, il vostro padroncino!» «Padrone? Come il mio padrone? Sono forse una serva?» «No, siete meno di una serva, dal momento che non fate nulla per guadagnarvi il pane. Ecco, mettetevi a sedere e riflettete sulla vostra cattiveria!» Nel frattempo erano riuscite a portarmi nella stanza indicata dalla signora Reed e mi avevano spinta a forza su uno sgabello. Il mio impulso fu di balzar su come una molla, ma due paia di mani mi bloccarono all'istante. «Se non state ferma dovremo legarvi», disse Bessie. «Dovreste sapere, signorina, che dovete molto alla signora Reed. Lei vi mantiene. Se decidesse di mandarvi via, dovreste andare all'ospizio». Non avevo niente da replicare. Quelle parole non erano nuove per me. I primissimi ricordi della mia vita includevano allusioni dello stesso tipo. Quel continuo rinfacciarmi la mia condizione di dipendenza era diventato una sorta di ritornello al mio orecchio, penoso e opprimente finché si vuole, ma così vago che quasi non lo sentivo più. Intervenne la signorina Abbott. «E poi non mettetevi in testa di essere uguale alle signorine e al signorino Reed solo perché la signora, buona com'è, vi tira su tutti insieme. Loro un giorno saranno ricchi e voi non avrete il becco di un quattrino. Vi conviene essere umile e cercare di comportarvi come si deve». «Lo diciamo per il vostro bene», aggiunse Bessie mitigando il tono. «Dovreste provare a rendervi utile e gradita e allora forse trovereste una casa qui. Ma se siete prepotente e sgarbata, la signora vi caccerà via, ne sono sicura». «E poi», disse la signorina Abbott, «Dio la punirà. Potrebbe fulminarla proprio nel mezzo di una delle sue scenate. E allora? Dove andrà a finire?» «Su, Bessie, lasciamola sola adesso. Nemmeno per tutto l'oro del mondo vorrei un cuore come il suo». «Quando sarete sola, dite le vostre preghiere, signorina Eyre, perché se non vi pentite, potrebbe venir giù qualcosa di brutto dal camino a portarvi via». Dopodiché uscirono, tirandosi dietro la porta e chiudendo la chiave. Elisabetta Piccolomini ha letto Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.